anche i repubblicani stanno cercando di mettersi in pari. Ma guarda, c'è una dichiarazione del portavoce della campagna di Obama, Ben LaVolt, il quale ha detto: beh, questa volta i repubblicani hanno deciso di giocare la partita sui social network, perché 4 anni fa, diciamo, partita non ci fu, ci fu soltanto uno che scese in campo, cioè Obama, e non solo utilizzò Twitter per la prima volta, diciamo, in modo diffuso, non so se ti ricordi la nomina del vicepresidente, del candidato vicepresidente Joe Biden, fu annunciata prima via Twitter e poi con comunicato stampa, diciamo, tradizionale. Ma soprattutto Obama allora utilizzò, grazie a Chris Hughes, uno dei fondatori di Facebook, che entrò nella gestione della sua campagna elettorale, utilizzò il sistema Facebook, il modello di aggregazione sociale di Facebook, e lo applicò alla politica nel suo sito mybarackobama.com, che sostanzialmente era un social network strutturato esattamente come Facebook, con il quale lui è riuscito a costituire gruppi locali e tematici in giro per il paese senza bisogno di muovere un dito. E questa è stata anche, tra l'altro, una fonte di non solo di aggregazione e di militanza, ma anche di finanziamento. I repubblicani non fecero assolutamente nulla. Questa volta invece ci sono, ma ci sono anche alla convention di Tampa in Florida, nell'arena vedevano questi tweet che scorrevano, tutto quanto, eccetera, però sono presenti, ma sono, diciamo, con numeri diversi rispetto a quelli di Obama, che appunto ovviamente è partito prima. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non credo che ci sia che questa campagna elettorale possa essere decisa da Twitter o da Facebook, come l'altra volta parte è stato, perché ormai, insomma, social network sono degli strumenti come gli altri, come il telefono. Il problema sono i contenuti, sai, chi li sa o chi li usa e che cosa ha da dire. Sì, naturalmente. Questo è perfettamente naturale. Tra l'altro, c'è un, al di là della differenza di peso, che se vogliamo è anche una questione storica, insomma, di peso intendo come presenza sui social network dei repubblicani e dei democratici, nel senso che i democratici, essendoci da più tempo, se vogliamo, hanno anche un peso maggiore in termini brutalmente di numeri. C'è una questione di come pesare questa presenza sui social network, perché insomma, un conto è viverli come propaganda, un conto è viverli come partecipazione politica. Sì, proprio il direttore delle iniziative digitali, delle strategie digitali della campagna Romney, Zach Moffat, che ho incontrato a Tampa, diceva esattamente questa cosa. È vero che i democratici, Obama, hanno numeri decisamente maggiori rispetto a quelli di Romney e dei repubblicani, però il problema è un po' come diceva Cuccia con le azioni delle aziende, e i numeri sui social network non si contano ma si pesano. Lui ha fatto l'esempio dei tempi della battaglia sulla riforma sanitaria di Obama. I numeri di Obama erano 20 volte superiori sui social network, però Moffat tendeva a vedere quanti di questi erano effettivamente impegnati e attivi nell'utilizzare appunto i social network ai fini politici, e vedeva che il livello di incidenza di quelli di Romney era molto più alto rispetto a quello di Obama. Però, detto questo, i numeri sono evidenti, cioè Obama ha oltre 19 milioni di followers su Twitter, Romney poco più di 1 milione. Io ho i dati, per esempio, di ieri Romney ha guadagnato 10.018 nuovi followers e Barack Obama ne ha guadagnati 46.169. Romney ha avuto 30.293 menzioni e 8.614 retweet, mentre Obama 68.510 menzioni e 33.715 retweet nella giornata di ieri. Quindi, insomma, i dati sono ampiamente a favore dei dei democratici, naturalmente. Poi su questo ovviamente conta anche il fatto, insomma, che uno è il presidente degli Stati Uniti e l'altro è solamente lo sfidante. L'altro, no. L'altro e l'altro non lo è, insomma, naturalmente. grazie a Christian Rocca, e naturalmente su questi temi torneremo, insomma, come si diceva, si vota a novembre negli Stati Uniti, e quindi ci sarà tempo di ritornarci, magari anche con singole storie.